È stato detto che un certo retaggio cristiano ci permette di asserire, almeno sulla carta, che l'onestà è una cosa buona, che la parola di un uomo o di una donna è sacra, che l'avidità è un male. Molto spesso, però, vediamo quanto questi valori oggi siano onorati più a parole che nei fatti, e purtroppo, nonostante la nostra vantata cristianità, noi italiani compariamo di gran lunga fra i popoli più litigiosi del mondo. Infatti abbiamo più avvocati che ingegneri, e un semplice accordo deve essere garantito da un cumulo di clausole a protezione dei contraenti. Litigare è talmente comune e abituale che ormai ci sentiamo quasi a disagio quando vi è armonia e pace, così come ci fa effetto un telegiornale che non annunci qualche brutta notizia. A volte l'abitudine fa diventare gradevole una cosa sgradita. Dai 6 a 16 anni ho vissuto in un collegio per orfani, senza affetto dei genitori. In un luogo dove in pochi metri avevo tutto ciò che mi necessitava. Se avevo difficoltà serie, potevo andare dalla sola persona del preside. Non conoscevo altro se non ciò che mi veniva propinato. Eppure in questo spazio dove la conoscenza e gli affetti mi erano limitati, non stavo poi così male, né sono stato cosciente di ciò che mi mancava fino al giorno quando, uscito dal collegio, ho iniziato a vivere una vita normale. Allora, avendo la possibilità di fare un confronto, ne ho preso coscienza. Così è del nostro rapporto con il prossimo. È talmente normale che ci siano contrasti, litigi, ripicche, vendette, che un rapporto senza litigi diventa quasi anomalo, come un giusto è anomalo in una società di ladri. Proprio per questa nostra capacità di adattarci alle situazioni, è necessario prendere sul serio il litigio e condannarlo per quello che è e per i danni che procura. Il 1 gennaio dell'anno 2007, la televisione annunciava che due uomini italiani di 30 anni avevano commesso cose orribili. Il primo uccide la moglie e la figlia e poi si suicide. L'altro, come stava scritto nei titoli, litiga con la madre disabile e la uccide a sprangate. Oggi le riprese di litigi nel corso di programmi televisivi sono usate per scopi propagandistici perché fanno spettacolo, piacciono alla gente e aumentano l'audience, al punto che ormai ci si chiede chi sia la persona più litigiosa dell'anno, quasi fosse un record al quale ambire. Per capire fino a che punto questo fenomeno si sia ampliato è sufficiente osservare le discussioni Mino, si fa per dire Mino dei nostri parlamentari a Montecitorio. Chi non sapesse cosa significhi litigare o come si litiga, almeno in questo campo, avrebbe da imparare qualcosa dai vari ministri italiani che ci rappresentano. Guardando un programma in televisione nell'ultimo giorno dell'anno 2006, sono stato interessato dal grande numero di telespettatori che, non a caso, mediante il loro telefonino, hanno inviato messaggi indirizzati a ottenere la pace nel mondo e non a litigare. Anche se il litigio è sottovalutato e strumentalizzato per scopi finanziari, rimane una delle piaghe che la società dovrebbe curare come una qualsiasi epidemia mortale. Pensiamo al primo litigio della storia dell'umanità raccontato nel libro della Genesi in merito a due fratelli, Caino e Abele. Caino era geloso di suo fratello, perché era accettato dall'Eterno, la loro divinità. Questa gelosia accecò i suoi sentimenti al punto da portarlo a eliminare suo fratello uccidendolo. Vi è dunque un litigio che porta alla soppressione della parte avversa, e questo soprattutto quando dal contrasto fuoriescono altri sentimenti fortemente negativi. Ne danno una prova quelle stragi di famiglie dovute a rancori antichi o profondi sentimenti di odio, o semplicemente uno scatto d'ira incontrollato, che spinge il litigante a esprimersi con una tale violenza da uccidere l'avversario per motivi d'onore. Così, un litigio e le sue conseguenze spesso mettono in evidenza caratteristiche negative nascoste o palesi, rimaste magari nascoste per anni dietro a un cammino irreprensibile. Per questo non devono mai essere sottovalutate le ragioni che ci spingono a litigare. Spesso non è la cosa in sé a produrre la lite, ma tramite uno sgarbo, un'offesa, un'incomprensione a volte emerge un'insofferenza portata avanti per molto tempo e che al momento scoppia in lite. La classica goccia che fa traboccare il vaso. Come una goccia non fa traboccare il vaso se questo non è pieno, così un'offesa, uno sgarbo, o un'incomprensione non possono produrre una lite, a meno che già prima non ci fosse qualcosa. Caino non avrebbe ucciso Abele se non avesse per molto tempo covato un'insana gelosia e rabbia. Perciò il suo gesto omicida ne ha rivelato gli altri peccati non meno gravi. Stessa cosa accade nella parabola omonima in merito al fratello del figlio prodigo. Lo scatto di ira e l'inimicizia dell'uomo verso il fratello sono stati rivelatori di gelosia, collera, orgoglio, mancanza d'amore, crudeltà, propria giustizia, malumore, suscettibilità, ostinazione e infine un cattivo carattere che erano insiti in lui. Dunque, un litigio che a prima vista ci sembra un piccolo ed innocuo punto debole del nostro temperamento rivela molto di più di quanto sembra. Per questo non dobbiamo sorridere con una certa simpatia o comprensione di fronte ad un litigio, sia esso creato dal prossimo o che provenga da parte nostra. Se proviene dal prossimo, esaminiamo che cosa ci possa essere dietro al litigio. Se invece siamo noi a provocare un litigio, dobbiamo valutare che cosa abbiamo in sospeso con il nostro prossimo. Prendere coscienza di questa realtà è molto salutare per non ricadere nello stesso errore. E soprattutto per evitare in futuro il peggio. Proprio perché il litigio rivela, come il pus, che sotto non c'è, è vita, cioè relazione, due sposi che del continuo litigano dovrebbero interrogarsi e verificare assieme le cause delle loro contese. Che vi siano dei litigi in seno al matrimonio è più che normale, perché si tratta di incastrare due personalità o caratteri, ma se la convivenza è caratterizzata da un continuo conflitto, è saggio non soprassedere e far finta di niente, perché è palese che ci sono dei problemi di fondo non risolti e un continuo attrito porta al divorzio, meno evidente o nascosto meno o alla separazione di fatto, anche se si abita sotto lo stesso tetto. Un modo sicuro per evitare la separazione o il divorzio è quello di sforzarsi meno, perché, almeno all'inizio, di sforzo si tratta meno per trovare cose positive nel proprio coniuge. E di incoraggiarlo o consolarlo al momento opportuno. Qualora sopravvenga il litigio e vivo interesse positivo per i bisogni del proprio partner quanto per i propri, porta sempre a trovare una via di riconciliazione e di feconda comunione. Lo stesso principio è valevole anche per quanto riguarda la comunione tra i figli di Dio. Fin dal suo nascere, la Chiesa è intesa come l'assemblea di coloro che sono diventati figli di Dio mediante un atto consapevole di fede in Cristo, ha spesso avuto all'interno dei conflitti. Questo in parte è anche giusto perché ci sono sempre dei Giuda in ogni comunità, ma quando i conflitti sono dovuti al brutto carattere dei figli di Dio, allora occorre prendere una decisa posizione. Come comportarsi quando dei fratelli in fede litigano? Piuttosto che dare un consiglio, conviene leggere ciò che ci è pervenuto negli scritti di Paolo in merito ai litigi dei primi cristiani. Ci è qualcuno di voi che, quando ha una questione contro un altro, osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare dei piccoli problemi? Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Se avete dunque delle cause giudiziarie per cose di questa vita, stabilite come giudici quelli che nella Chiesa sono i meno stimati. Dico questo per farvi vergogna. Così non ci è tra voi neppure un savio che nel vostro mezzo sia capace di pronunciare un giudizio tra i suoi fratelli? Il fratello invece chiama in giudizio il fratello, e ciò davanti agli infedeli. È certamente già un male che abbiate tra di voi delle cause gli uni contro gli altri. Perché non subite piuttosto un torto? Perché non vi lasciate piuttosto defraudare? Voi invece fate torto e defraudate, e questo nei confronti dei fratelli. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? 1 Corinzi 6, 1 a 9. L'Apostolo Paolo non si è scandalizzato per il fatto che i credenti avessero delle liti tra di loro, ma era sorpreso, se così possiamo dire meno, dal fatto che i figli di Dio portassero i loro contrasti davanti agli infedeli per essere giudicati. Per l'Apostolo questo comportamento rappresenta il massimo dell'assurdità. Se chi ha posto fede in Cristo giudicherà coloro che sono increduli perché deve portare davanti a loro le questioni che riguardano questa vita. Se i figli di Dio giudicheranno addirittura gli angeli, come mai hanno il coraggio di portare le loro cause davanti agli increduli? Perché ne traggono una giusta sentenza? I figli di Dio non sono consapevoli della loro posizione spirituale. Ecco il motivo che li spinge a vivere come dei miserabili. Dato che i credenti giudicheranno gli increduli e gli angeli, perché, chiede Paolo, non giudicare anche le liti o le cause terrene tra i figli di Dio? Possibile, si chiede sempre l'apostolo Paolo, che non ci sia in una comunità qualche persona capace di fare da pacere o da giudice? Sono domande che, meditate seriamente, possono portare a cambiare totalmente l'andamento di una comunità e dell'intera Chiesa universale. Infatti varie comunità si trascinano questioni, liti, cause addirittura per generazioni, mentre tutto sarebbe risolvibile se alcuni fratelli scelti dalla comunità potessero dire l'ultima parola e decidere una volta per sempre. E se la sentenza fosse ingiusta, potrebbe essere l'inevitabile e immediata domanda a questa soluzione. Tutto è possibile, ma ancora una volta Dio non è preso alla sprovvista. Innanzitutto il principio di avere un'autorità spirituale umana che decidesse in merito alle liti tra i credenti, ossia la figura del sacerdote, era già stata stabilita dall'Eterno Dio quando diede le sue leggi nell'Antico Testamento, Deuteronomio 17:11-13. Inoltre, occorre compiere un altro passo di fede, un altro perché tutta la vita cristiana è vissuta per fede, e considerare come da parte di Dio qualsiasi sentenza è emessa. Infine, la domanda di Paolo deve e dovrebbe far riflettere chi crede nel Dio Trino sovrano e nella sua divina parola quale autorità in materia non solo di fede, ma anche di condotta. Perché non subite piuttosto un torto? Perché non vi lasciate piuttosto defraudare? Quando una lite si può risolvere accomodando le cose in comune accordo bene, diversamente, occorre imparare la grande regola cristiana di subire qualche torto, piuttosto di commetterlo. Perché, se Gesù, il Figlio di Dio, ha preso su di sé i torti degli uomini per il credente, non vi è maggiore identificazione con Cristo che subire per amor suo dei torti. Con questa regola, non solo si può migliorare il rapporto con il prossimo, ma anche togliere i numerosi litigi che affliggono tutta l'umanità. Ancora una volta, il cristianesimo è la soluzione ai problemi personali e mondiali. Gennaio 2007, Ellero.